sein Sehn. Potesse um dimutarsi in un cocente amore e turbar dei tuoi dì il cor sofferente. A te dei fiori smunti colori cui tu brami a vivere Piro